Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Come cambiano le stagioni, cambia anche il mio viaggiare nel treno. Devo dire che sono molto più attratto da ciò che accade fuori del finestrino, nel vedere la fioritura improvvisamente della natura che risorge dopo il rigore invernale. Ma quando mai? Sono tutte uguali le stagioni. Piacerebbe poter dire che cambia il paesaggio al di fuori del finestrino. Ormai è sempre uguale, è come se fosse un film in loop, inizia e finisce sempre nella stessa maniera e vedo sempre le stesse cose, le cosiddette case che stanno a ridosso della ferrovia sono tutte uguali. Una volta, quando ero piccolo, mi raccontavano che erano le case dei ferrovieri a cui davano per costruire le loro case quel pezzettino di terra, quella strisciolina che passa accanto alle rotaie. Non so se è vero o non vero, leggenda metropolitana, me le guardavo però queste case e pensavo che dentro c'erano i ferrovieri, davanti c'era la facciata che dava verso il mondo, invece la parte del dietro, la parte della facciata della casa che dà sulla ferrovia era quanto mai misteriosa. Erano le cose che il mondo non vedeva, ma vedevano i loro ferrovieri. Mi immaginavo le mogli dei ferrovieri che mettevano dei panni esposti, non so, una tovaglia con colorata, un lenzuolo, una camicia la notte, per salutare o dare un segnale al marito ferroviere che passava con il treno e magari faceva fischiare il treno. Beh, mentre mi perdo in queste stupide chiacchiere romantiche, la vedo, è lì, immobilizzata, mi guarda e vuole che la, le dia importanza, lei, la chattatrice misteriosa. La donna che ormai ha scambiato il suo tempo futile nel tempo davanti a una chat, alla ricerca dell'uomo della vita, dell'amante, del consigliere, del padre perduto, del marito mai avuto, del fidanzato agognato o semplicemente della caccia all'uomo esasperato. Vabbè, raccontami l'ultimo, così facciamo prima. Allora, l'ultimissimo, proprio un anno. A quanto risale? Al mese scorso. Cosa è l'inizio e la fine, voglio sapere. Allora, questa persona mi ha contattato su questo sito in un modo molto carino, perché poi le persone che mi contattano in un modo non gradevole io le depenno immediatamente. E questo è molto carino, molto, molto dolce, molto... Ti premetto che era un weekend molto brutto, quindi le persone stavano in casa, non avevano nient'altro da fare, quindi va bene, questa cosa è andata anche a nostro favore. Lui mi ha cominciato a telefonare e quindi siamo stati al telefono. Spiegami. Ti contatta e tu gli dai subito il numero di telefono, come funziona? No, vabbè, dopo un'oretta, ma sai che queste cose ormai si vanno a pelle, è veloce, no? Sì. C'è uno che ti chiama, è simpatico, è carino, è gentile, simpatico, quindi carino, chiede, dai, il telefono, perché no? E va bene, dai, comunque tanto poi alla fine c'è il modo di bloccare queste persone, certo, no? Lo troviamo, quindi va bene, perché no? Quindi cominciamo questa nostra conversazione, molto carina, ti assicuro, molto simpatica, che ci intrattiene per 3 giorni consecutivi. 3 giorni al telefono? Sabato, domenica, lunedì, praticamente quasi sempre al telefono. Ma eravate molto distanti? Si parla sempre di Roma e un'altra località. Ma quanto? In orari? Che 80 chilometri, 70. Cioè, scusa, ma dopo il primo giorno e mezzo che vi telefonavate, questi 80 chilometri, montare in macchina, passare quei 20 no? minuti, mezz'ora, non mi sembra. Lì è proprio... No, mezz'ora, un'oretta, dai, un'oretta di strada. Ma poi, va bene, ma poi di scuse ce ne sono un'infinità. Vuoi sapere quelle più palesi? Hai parlato 3 giorni al telefono, poi? Ok. E poi quindi abbiamo parlato di tutto e di più, perché abbiamo parlato e della sua salute e della mia salute e della sua famiglia e della mia famiglia. Non c'è stato, ti assicuro, non c'è stato mai, neanche lontanamente palesato, una discussione relativa al sesso. Quindi non è da dire, vabbè. Sì, ma qual era il motivo di ispirazione? Tu gli raccontavi della sciatica? Ma sai, ci siamo raccontati un po' di tutto, perché no, anche di quella, e quindi la sua famiglia, cioè di tutto. Lui ti ha detto cos'è, sposato questo personaggio? No, no, no, assolutamente singolissimo. Quanti anni ha? Più o meno. Sessantina, è un sessantenne, diciamo, single, vabbè, vedovo, single. Separato. Separato, divorziato, quindi vuoi venire a casa mia quando vuoi, mi ha dato il suo cognome, mi ha dato il suo indirizzo, certo ovviamente chissà se queste cose saranno vere, quindi potevo salire a casa sua e quindi constatare che il disordine quindi giustificava l'esistenza di una persona single. Ok, quindi alla luce di tutti questi fatti, sai, il coccolamento, le promesse, sarai la donna della mia vita e non ti libererai di me tanto facilmente, improvvisamente questa persona... Ma tu a lui cosa avevi detto? Che cercavi un uomo mordi e fuggi o volevi una storia? Cosa gli hai detto? No, gli ho detto che comunque avrei voluto una storia, ecco, sì, sicuramente. Okay, quindi, carte chiare subito. Ma indubbiamente sì, perché nascondersi? Quindi questa persona sarebbe dovuta venire questo famoso martedì. Da te mi lui, chiama, lui da te. Da me, sì, lui da me. Mi chiama, mi conferma che sarebbe partito di lì a poco e quindi buon cappuccino, buona giornata, mi mandi l'indirizzo dove devo raggiungerti. Dopo un'oretta mi chiama con la voce rotta dall'emozione dicendomi che era morta una cugina molto prossima. Mazza che sfiga, proprio nel momento che stava per partire. Ma proprio guarda, c'è un tempismo incredibile. Vabbè, altre scuse potrebbero essere che so, si è incendiata la ditta, piuttosto che è morta la cognata di mia moglie. Cioè le cose allucinanti succedono, delle scuse veramente... Era morta la cugina. Ma mai che gli viene un colpo della strega a lui? No, mai. Cioè, prendiamoci le nostre responsabilità, no? Almeno sulle scuse. Almeno quindi su questo? Si è completamente volatizzato. Io gli ho mandato dei messaggini poi durante la giornata, che vuoi anche un po' di cordoglio, no? Comunque di... Povera di cugina. Povera cugina, no? E certo poi a distanza di 24-36 ore mi sono resa conto, insomma, che questa mancanza... questa scomparsa era un po' eccessiva, quindi ho cercato di chiamarlo, mi ha attaccato il telefono, non mi ha risposto ai messaggi, insomma è sparito. Allora, cioè io vorrei sapere, ma spiegamelo tu che sei un maschietto, ma qual è il fine di questo? Parolone maschietto, vabbè, dai. Qual è il fine di queste persone? Ma dimmelo. Guarda, mi sembra molto strano, perché 3 giorni al telefono a parlare con una signora, il più del meno, può essere anche piacevole, non dico di no. Ma lo è stato. Forse voleva soltanto parlare al telefono con una persona. Basta, fine. Poi nel momento che mi devi incontrare sparisci così. Non gli andava ad incontrarti, che devo fare? È così. Quando peschi, non puoi scegliere che pesce viene su. Viene su un pesce telefonista, non è un pesce incontratore, che devo dirti? Non lo so. Probabilmente si apparano, hanno bisogno di parlare. Lo psicanalista costa 80 euro a seduta, parlano con te che gli costa, c'hanno probabilmente le carte prepagate, non certo, lo so. Certo, sì. O se no ne attizzate 4-5, alla fine ha fatto una collazione e ha scelto quella che a lui più conveniva, cioè quella che era più veloce, più vicina, con più meno impegno. No, mettiamoci un po' di più. Capito. Ma secondo me seguono proprio dei copioni, no? Siccome immagino che il rapporto sia 10 donne e uomo, perché ormai se è capovolto in rete, i primi anni della rete c'erano 50.000 uomini assatanati, molti fingevano di essere donne, pensando di accalappiare donne con la scusa di essere donne. Oggi sono più donne che uomini, secondo me. Sì, che cercano comunque quello che una volta si cercava quando si andava a passeggio, persone con cui relazionarsi, in una gamma infinita, da l'uomo per la vita al compagno per una notte brava, che ci sta tutto, capito? È soltanto, quindi è soltanto una relazione verbale, perché poi è fine a se stessa. Cioè la persona dall'altra parte del filo ti risponde e ti dà esattamente quello che tu stai cercando. Io ormai mi sono convinta di questo, no? Che loro seguono una sorta di copioni con una rubrica alfabetica. Se io chiedo amore, loro vanno sotto la lettera A. Se chiedo sesso, sotto la lettera S e via discorrendo. E ti danno esattamente, ti rispondono esattamente a quello che tu vuoi essere risposta. Non so se riesco a rendere l'idea. Sì, ti assecondano. Una sola cosa poi non mi è chiaro. Uno può anche parlare 3 giorni al telefono, perché puoi prendere l'appuntamento se poi uno deve trovare la scusa? Ah, ecco, io te lo sto chiedendo a te. C'è una così poca considerazione del tempo e dell'emotività altrui, che di appuntamenti se ne prendono 10. Poi si fa il confronto, questa 80 km ci vuole un'ora, quest'altra 30 km sì, vicina. Ma un'ora prima di partire? Un'ora prima di partire mi dici questo? No, allora potrebbe anche essere altra cosa. Si era organizzato la scappatella. Aveva messo a posto la moglie, aveva messo a posto i figli, tutti. Sì. Improvvisamente, visto il contrattempo, il bambino c'ha la diarrea, quindi la moglie rimane a casa, non vanno più in campagna, capito? E allora si è ritrovata tutta la famiglia addosso e ha dovuto rimandare. Non mi meraviglierei più di niente. Cioè, che poi tra l'altro io a questo ho cercato di fregarlo, perché è veramente una cosa alla quale io non riuscivo a bozzare. E quindi mi sono messa un'altra scheda in un altro telefono e quindi l'ho chiamato con un telefono che lui astuta non è, come non una lince ma che figura di che è successo. Quindi lui mi ha risposto, anzi non avendomi risposto prima mi ha chiamato poi lui in seguito e dico: senti, io sono Tizia, tu sei Tizio, e sì, quindi il nome, quindi come era, sei giustificato? E dico: ma dimmi, cioè io non è che chiedo chissà che cosa, ma tra persone civili ed educate magari c'è un ciao, no? Un addio, un arrivederci, un saluto, come si fa quando ci si incontra per le scale. E lui mi ha detto che: sai, sono disperato perché cerco di contattare mio figlio in Kurdistan e non ci sto riuscendo. Perché il figlio che fa in Kurdistan? Ma che ne so, non lo so io, ma non è vero, non è vero. A combattere vero contro l'ISIS con i Peshmerga, cosa è andato a fare il figlio? Ma quando è partito? Ieri? Cioè, questa situazione è successa il mese scorso, tu in un mese non hai avuto modo di rispondermi né all'email né alle telefonate né WhatsApp e via discorrendo. Vabbè, dai, è un povero cialtrone, è uno sfigato, questo almeno renditene conto. È un povero figlio! Allora, qual è, adesso tu mi dici, perché continui a perseverare? Perché io li voglio trovare, li voglio scavare, portare alla sì, luce. Sì, però cara, scusami, persone. Ormai dovresti minimamente aver affinato un po' di intuito. In 3 giorni al telefono, che era un povero scemo, non l'hai capita? Scemo nel senso di un poveretto, uno che non sa manco quello che vuole, non è manco un mezzo uomo, perché vuoi fare il conquistatore, ce l'hai la conquista, va a vedere le carte, proprio non piacerti. Cioè io capirei che viene a casa tua, bussa, apre la porta, ti vede, cioè no, sei completamente diversa da quello perfetto, che immaginavo. E ci sta tutto. Oppure c'è, esce, dice: guarda, proprio non va. Cioè, la gente se ne accorge dopo anni, Ti potrei ancora dire delle cose infinite, tipo l'altro che mi contatta e mi manda addirittura delle canzoni fatte da lui, composte da lui. Lui si spaccia per il paroliere di un noto complesso italiano e poi ha detto che quando mi incontra mi regala un monile della mamma perché è giusto che lo tenga io. Addirittura. Nemmeno la moglie si fa questo. Cioè no, vabbè, ma lo si fa con me, che ci si sente soltanto per 2 giorni, mi sembra giusto. No, ma che tu ma puoi rendi credere una cosa del genere, dai. Che assurda, vabbè, a questa non ci ho creduto dal primo momento. L'altro è stato molto bravo e vabbè, c'è un concorso di colpa, perché io ci ho creduto, lui è stato bravo, io sono stata astuta con la seconda telefonata, ma poi alla fine dai, non, perché ho soltanto una conferma di quello che alla fine c'è su questi siti, che sono degli omuncoli, ecco, adesso mi... Nel solco adesso... della tradizione, comunque. Cioè, veramente, guarda, stiamo copiando ed incollando. Sempre delle conferme, sempre maggiori, che sono veramente delle persone che si nascondono dietro a dei paraventi così, così sottili, così puerili. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Però fammi capire, il fatto che tu insista, comunque, ogni volta che ci incontriamo, mi racconti sempre, di avventure potrebbero essere fotocopiate una all'altra, tanto si somigliano. Sì. Cosa significa? Che alla fine comunque è sempre meglio di niente, o comunque c'è la speranza che qualcosa possa cambiare? Allora, indubbiamente che ci sia una speranza, ovviamente quella c'è. Però più vado avanti e più mi rendo conto che questa speranza viene sempre più offuscata e cioè le sto perdendo alla fine le speranze. Però che cosa succede? Che il sempre meglio di niente che mi stai sottolineando mi incita a scoprire, a trovare, a portare poi alla luce la fragilità di questa persona misera e povera nel suo intimo, che in realtà non lo sa di essere. Beh, è un'altra, è una persona nuova che non mi ha raccontato ancora. Ma sì, sai, una, due, tre, che possa chiamarsi questa persona Paolo, Fabio. Quindi? Però ecco, è diventato un gioco quasi al massacro. Io voglio smascherare questi personaggi. No, perché veramente loro pensano di essere uomini soltanto perché hanno due palle, ma non è detto. Anche quello è tutto da vedere. È appunto, ma ce l'hanno così nascoste che veramente hanno perso la ragione. Si chiama criptorchismo, la patologia. Sono dei criptorchidi, pensica così. Hanno una sorta di ritenzione dei testicoli all'interno dello scroto. Probabilmente questo. Ma i medici me lo stai dicendo? Sì, ok, perfetto, sono d'accordo. Non conosco altre terminologie per definire questa malattia. A questo punto mi diverto, guarda, ti giuro, mi diverto, e sta diventando non più la ricerca della persona che magari con la quale io avrei potuto condividere i tramonti piuttosto che una cena intima. No. Oh, adesso ho capito tutto. Tu hai smesso di cercare una persona, sei diventata la vendicatrice dei poveri cuori abbandonati. Nel senso, vuoi smascherare il cialtrone via chat, questo. Ma tu che dici? Ma è bellissima sta cosa. Ma tu, scusa, perché non dovresti pubblicare le foto con tutto un resoconto sotto? Ma io voglio pubblicare un libro su queste persone. Ah, beh, questo sì. Gli inconcludenti. Io voglio scrivere. Gli inconcludenti. Bravo, ma hai già dato il titolo, me l'hai messo. Gli inconcludenti, un bel titolo, sembra un titolo di Moravia. Se oggi fosse vissuto avrebbe scritto gli inconcludenti. Avrebbe scritto gli inconcludenti. Va bene, bocca al lupo, che ti devo dire? Poi alla fine un pochino ti verrà qualche desiderio diverso, perché la forza di aver a che fare con gli inconcludenti. Ora c'è questo e mi diverto, ti assicuro che in questo momento io mi sto divertendo. Vabbè, tanto sai già come va a finire. Sì, lo so, ormai è un copia e incolla. Ma perché non provi te a precederli una volta e 30 secondi prima che ti chiamino inventarti te la scusa della cugina moribonda? Non e vedere che succede. In tempo. Non fai in tempo. Finora non ho mai fatto in tempo. Quando stavo per dargli buca, me la danno prima loro. Hanno un tempismo eccezionale, sono proprio bravi. È la buca più veloce del Far West. Questo potrebbe essere un altro titolo, vedi? T'abbraccio, va, buon viaggio. Grazie. Alla prossima. Anche a te. Ciao, cara, ciao. Ciao. Se a me dite tradotta, viene in mente la tradotta militare. Sì, perché ancora ai miei tempi, quando si faceva la naia, non parlo di un'altra epoca dell'universo, ma parlo semplicemente, non so, della metà degli anni 80, primi anni 80, quando dal CAR, cioè dal centro addestramento reclute, si andava poi al corpo di appartenenza, si faceva con la tradotta. La tradotta dove mettevano i militari, siccome puzzavano, erano scomposti, non erano manco molto belli da vedere, erano come dei treni speciali. Erano dei vecchi treni con le panche di legno dove venivano ammassate i militari, quattro per panca, bisogna stare tutti gomito a gomito, la divisa era sempre pesantissima, era di lana e pizzicava, e la mia trasferta in tradotta fu fatta d'estate, quindi la feci in mezzo al sudore di altri quattro, sei, otto commilitoni tutti dentro lo stesso vagone, con gli zaini belli messi sopra la cappelliera, e stavamo lì tristissimi con quelle scarpe di cuoio finte che facevano male ai piedi. Beh, questo perché lo dico? Perché il personaggio che ho davanti si vede in maniera inequivocabile che sia un militare. Non so perché, perché vestito normale, vestito come veste qualsiasi viaggiatore, inconfondibile tra gli altri naturalmente, però c'è da dire che dalla sua postura, dal modo di stare seduto, dal taglio dei capelli, capisco che uno la naia l'ha fatta, e ne ha fatta probabilmente tanta. Ma hai avuto una vita molto avventurosa? Sì, abbastanza. Almeno nei 5 anni che sono stato nella legione straniera. Ma quella è una scelta che si fa così, uno dice voglio uscire dal mondo e vado nella legione straniera? No, non proprio, perché lì ci sono persone che vengono un po' da tutto il mondo, anche se la precedenza nell'arruolamento viene dato a personale di madrelingua francese. Ma tu dove sei andato? In Corsica? Dove ti sei? Sono stato 6 mesi a Auvagne, tra Auvagne e Port-sur-Mont, che è ai confini sui Pirenei, per l'addestramento, perché praticamente vengono fatti 6 mesi di scuola addestrativa, e che sono suddivisi in una parte di addestramento formale, in cui ti insegnano l'inquadramento militare, e la lingua francese, i rudimenti, perché poi proprio la lingua francese per me non la impari. E poi sì, ma fa un passo indietro, voglio capire come mai ti sei svegliato una mattina e hai detto oggi vado a iscrivermi, a arruolarmi nella legione straniera. È un po' una scelta, nel mio caso è stata una scelta un po' forzata, perché io vengo da una piccola provincia della Toscana, in cui si nasce classicamente divisi tra rossi e neri. Tu non eri rosso, quindi volevi la prova del fuoco. No. E c'è un po' più dietro. Ora non posso spiegare di preciso. Comunque, vabbè, ho capito. Comunque è una scelta. Ho dovuto scappare per alcuni anni dalla mia provincia, e non avendo grandi mezzi economici mi fu prospettata questa cosa. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Tu in che anni l'hai fatta la legione? In che anni l'hai fatta? Io sono stato tra il 92 e il 96. In quel tempo la legione cosa faceva? Che operazioni? Ma la Legione Straniera è sempre stata, anche tuttora, molto impegnata all'estero in molte missioni. Ma in quegli anni lì in particolare cosa ti ha fatto fare? Ma io sono stato in quel periodo alle porte dello spazio, come si dice. Sono stato alla Guyana francese per un certo periodo a fare servizio di guarnigione. Lì c'è un'importantissima base aerospaziale da cui partono i razzi per spedire satelliti e materiali in orbita. Però non hai combattuto, in zona d'operazione non sei mai stato. Era servizio di guarnigione, non è che facevo, era molto noiosa la cosa. Poi, siccome io ho avuto un addestramento di base come sminatore, lì non c'era molto da fare, sicché ebbi la bella pensata, e lì mi sono rovinato, di chiedere di essere aggregato a qualche unità che si occupasse di questo, e fui aggregato ai 105 ruotati, come sarebbero gli autoblindo modello Panhard. Vabbè, comunque un mezzo leggero di militare. Sì, sono autoblindo leggeri a 4 ruote, e sono stato anche lì, sono stato in servizio in Somalia per un turno, poi sono tornato in Francia, mi hanno rimandato in Libano, sono stato in Libano, sono tornato in Somalia e ho passato gli ultimi anni lì. Hai avuto momenti difficili, particolarmente difficili? Non è che ti volano le classiche pallottole addosso, quelle sono cose legate a... Tu speravi quello, speravi un battesimo del fuoco? Sì, pensavo francamente a una cosa più movimentata, come avevi visto nei film, come avevi letto nei libri, così. Sì, perché ti aspetti queste grandi cariche, oppure queste cose tipo marcia o muori, come i famosi film. Certo. Però in realtà non è così, anche se poi ti trovi magari invischiato in cose, combattimenti all'arma bianca, assedi, queste cose. Sì, qua, sì, immagino, perché uno pensa a queste cose, però la Legione Straniera è sempre stato un po' un ricettacolo di persone. Ecco, chi hai conosciuto te di persona che va a fare il legionario perché non ha altre collocazioni nella società? C'era un ex tenente colonnello russo, che lui aveva passato molti anni in Afghanistan e poi con il crollo dell'Unione Sovietica si era trovato praticamente disoccupato, e apparteneva a quella schiera di persone che sono soldati dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, non sapeva cosa fare e si arruolò nella Legione Straniera. Gorskov, Michael Gorskov, e lui è quello che praticamente mi ha seguito per tutto l'iter. Quando sono arrivato lì a Aubagne mi ha fatto la... Cioè una specie di Rambo, quelli che non si rassegnano che la guerra sia finita e devono continuare. Sì, una specie di Rambo. Io penso, anche se non è come nei film, con queste munizioni arrotolate al braccio, no, non funziona così. Però sì, ci sono persone che... Ma più che altro perché sono professionisti del settore. Tu non hai messo da parte nulla? Ma sì, tornai a casa con, all'epoca erano qualcosa come una decina di milioni di lire nel 96, non è che avevo portato a casa tanto. Non è che avevi fatto una fortuna. Certamente si è portato a casa di più. La prima cosa che feci appena arrivato in Italia fu di comprarmi la macchina e riprendermi la patente. Certo, te la sei sudata con la macchina, potevi prendere la rata e andare a fare il pompista in una stazione di benzina e pagarti le rate, e sei andato a fare il legionario. E cioè, che macchina hai comprato? una macchinetta con 10 una milioni. Citroen ZX. Pensate. Quanti anni hai fatto di legione? Quanti anni in legione? In tutto 5 anni. Cioè 5 anni nella legione straniera per comprarsi una ZX, dai. Sì, alla sì. fine. In effetti a raccontarlo è non ci si crede. Cosa hai imparato da questi 5 anni? Ti sarei portato qualcosa dietro, no? Dell'esperienza, che fra la realtà e il romanzo c'è sempre una grande differenza, non lo so. Tutti abbiamo una nostra storia alle spalle che ci porta a fare delle decisioni, degli errori o a subirne delle conseguenze, perché io quando tornai ebbi un... cioè io... bisognerebbe tornare un attimino indietro. Io partecipai a una cosa che mi lasciò segnato dentro, mi lasciò segnato dentro e rimasi in depressione. Ebbi una brutta depressione che poi l'ho portata avanti anche per degli anni dopo. Ma prima o dopo di partire per la legione? No, durante, nell'ultimo periodo che stetti in Somalia, perché praticamente ammazzai un bambino. E come mai l'ammazzasti? Ma per sbaglio? Per errore? Per errore l'hai ammazzato? Sì, per errore, perché praticamente eravamo di pattuglia, eravamo appiedati e nulla, sbucò questo ragazzino. Siccome lì ti facevano di tutto, ci sono... Sì, ma le tue regole di ingaggio ti permettevano di sparare se qualcuno si muove? Cioè, sei stato messo sotto processo per questa cosa oppure no? No, senza assoluto. Ma figurati te, se ti vanno a mettere sotto processo un personale che è costato migliaia di franchi in addestramento, in scuola. No. Ma quale poteva essere il rischio per sparare a un bambino? Che fosse armato, fosse qualcuno... Questo uscì fuori da una via laterale e noi eravamo in un vicolo grande, poco più della Panhard, di questa autoblind. Sì. Mi sbucò fuori all'improvviso, noi eravamo davanti, in avanscoperta, proprio per evitare che ci fossero lancio di razzi RPG contro l'autoblind. E che accadeva questo? Sì. Accadeva? Sì, a voglia, a voglia. C'erano dei momenti... Erano i vostri nemici comunque? Vivevano proprio, perché erano ostili, perché i somali non ci volevano lì perché... Era anche casa loro. Risolvere cose a parte loro. Certo, era anche casa loro. E questo uscì fuori, aveva un tubo. Aveva semplicemente un tubo. E tu pensavi fosse un lanciarazzi? Pensavo fosse un'arma. Ho visto un oggetto metallico, gliel'ho visto in mano, e le regole d'ingaggio prevederebbero altre cose, però nessuno... Cosa dovevi fare? Secondo la regola cosa dovevi fare? Beh, certo, dovevi aspettare che avesse sparato prima lui. Con un lanciarazzi... No, ma qualsiasi arma fosse stato, le regole d'ingaggio dell'ONU prevedono questo. E tu l'hai seccato subito, gli hai sparato e l'hai ammazzato? Sì, l'ho preso al torace con una... Noi usavamo i 765, 762. NATO. Beh, un proiettile devastante, chiaro. Insomma, fa un bel buco, ti entra, fa 7 mm di foro, ti esce, te ne fa 10 cm. E cosa è successo? Dopo che hai sparato il bambino, esattamente che è accaduto? Siamo resi conto che è stato un incidente lì per lì, nulla, l'abbiamo proseguito come se nulla fosse. Sono cose che accadono durante una guerra, queste? Sì. Sì. E quella era una guerra, anche se poi eufemisticamente chiamiamo peacekeeping, cioè abbiamo mille modi per chiamarle, sì, fine è una guerra. In realtà ti mandano lì perché qualche politico si alza la mattina e ti dice dovete andare a risolvere interessi o questioni nazionali con le armi. È finita così, nessuno ti ha detto nulla dei tuoi compagni, no. Dei tuoi... Niente, no. Normale. Niente. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Tu l'hai visto il film American Sniper? L'hai visto il film? Sì. Lui è una fase uguale. Lui a un certo punto vede uscire una donna con un bambino coperta, mi sembra in Afghanistan, mi sembra, se non mi sbaglio. Mi sembra in Iraq. Sì. Lui non sa se sparare o no. Le regole d'ingaggio dicono che può anche sparare. Gli dicono dalla radio, decidi te, la decisione tua. Ma lui sa se avesse ucciso un innocente avrebbe pagato. Alla fine la donna tira fuori il lanciarazzi e era veramente un lanciarazzi. Sì, la questione. Sì, però quello è un film. È un film tratto da un romanzo basato su una storia vera, perché la storia vera di questo cecchino. Però, vedi Gianluca, un conto è essere un cecchino che tu hai un addestramento apposta come sniper, è un conto essere un fante che si occupa di sminare. Cioè, sono cose completamente diverse. Non ti addestrano per uccidere bambini, non sei quello. Anche se poi può capitare. Quindi tu, diciamo, hai superato quello che era il limite delle regole di ingaggio, non ti hanno fatto nulla, ma dentro di te come te la sei portata dietro poi questa cosa? Male, perché non era la prima volta che capitava che cose di questo genere succedevano, tra virgolette, però un conto è quando tu spari a qualcosa. Io ti racconto questa cosa qui, poi sei libero di credermi oppure no. No, ma io non ti devo dire. Qualche tempo prima, lì in Somalia usano praticamente, arrivavano gli aiuti umanitari dell'ONU e se ne appropriavano, diciamo, i signorotti, i mafiosetti del luogo. Locali, cioè. Sì, però quando magari qualcuno faceva qualcosa che non andava fatto, tipo prendersi un sacco di riso o portare via qualche cosa di qualsiasi genere a questa gente, loro gli davano fuoco. Gli davano fuoco con una miscela di gasolio e benzina. Con il copertone al collo, oppure no, fuoco semplicemente? Sì. E poi li lasciavano correre. E tu vedevi questi che correvano, questi somali, correvano incendiati. Beh, alle volte per pietà gli spari. Pertanto ormai erano destinati, erano destinati a morire in maniera croce. Però non è la stessa cosa, capisci Gianluca? Oppure... Quindi accadeva spesso, tu vedevi questi incendiati per beghe di clan interni e gli sparavi per non farli soffrire. Sì. Insomma, e tu l'hai mai fatto questo? No, io no. Ma l'hai visto fare? No, io ho sempre detto no, io non do. Comunque non era certo un bello spettacolo a vedere, penso. Una persona che corre, sì, urla. Non ero lì per fare da pasciere tra una fazione e l'altra. Erano problemi loro, se li dovevano risolvere fra loro. Anche perché se ti invischiavi non sapevi mai dove andavi a finire. Beh, però vedi che alla fine il passaggio in una dimensione così altra rispetto al quotidiano. Cioè, ma diventi cinico, eh? Certo. Ti fanno diventare cinico. Sì, ma però, vedi, lo sai perché è importante questa chiacchierata, secondo me, anche per me? Perché ti conferma quello che mi hanno detto mio padre, mio nonno, tutte le persone che ho conosciuto che hanno fatto la guerra. Non esistono le guerre pulite. Quando entri con un'arma in mano in un territorio che non è il tuo e comunque c'è un nemico, cadono tutte le regole, ammesso che possano esistere delle regole. Che fai adesso? Vabbè, ho trovato a fare una cosa che non richiedeva una grande specializzazione, una grande... Cioè? La guardia notturna, ho trovato a lavorare in un'azienda di vigilanza. Quindi però hai messo a frutto, diciamo, il tuo addestramento, almeno questo. Ti danno una pistola scarica che non puoi usare alla fine. Diciamo che evito attentamente di trovarmi in situazioni spiacevoli, perché non è che voglio essere sopra le righe, però non mi spreco per... Senti, ma i tuoi compagni metronotte sanno che tu hai avuto questo passato, che hai fatto... No, assolutamente. Perché loro saranno dei signori che magari sono andati al poligono di tiro mezz'ora con la panzetta e vanno lì. Alle volte sorrido sulla cosa, perché mi è capitato alle volte di parlare con colleghi dell'argomento senza entrare nei particolari, e mi dispiace perché, insomma, ora è tanti anni che faccio questo lavoro. Questi al massimo avranno tirato le beccacce, saranno ex cacciatori, che avranno mai fatto? Alle volte senti fare discorsi un po' da Rambo del bar al tavolino, tipo ma se io, e gli faccio, ma guarda, senti, quando ti tirano addosso, per prima cosa ti si chiude il buco del culo. Certo. E non ti passa uno spillo. E poi se hai le palle... Se hai le palle rispondi, però più delle volte talmente tanto veloce che non ti rendi neanche conto della cosa. E io sorrido un po' davanti a questi colleghi che si vantano di essere pronti al combattimento con i malviventi. Sì. Beh, io penso sia meglio per loro, ma meglio per l'umanità in generale, che non gli accada mai. E se gli accade, se siano belli, fermi, immobili, non facciano nulla, secondo me. Ma è un po', io credo, che alla fine dei conti bisognerebbe che certe persone si venisse chiusi in una bacheca e si rimanesse lì, basta. Il museo degli eroi mancati, lascia perdere, dai. Sì, il museo degli eroi mancati. Vabbè, mica la vita è finita, adesso hai avuto un episodio traumatico, terribile, che segna una vita, un'esistenza, però... Sì, però vedi... Visto il contesto, avrei modo di elaborarlo, non lo dico... per cinismo o perché mi sembra qualcosa di non grave. Eri in guerra e ti sei comportato non secondo i regolamenti, ma ripeto, non esiste regolamento in guerra perché tutti fanno tutto. E quindi eri nella guerra e la guerra è sempre sporca. Io sono stato a un passo da spararmi in bocca per il rimorso, per questa depressione. Come palla di lardo in Full Metal Jacket, che si spara in bocca. Vabbè, lui, quello era proprio un film, poi quello aveva sbroccato. Però vedi, la tua vita è costellata di episodi che ricordano comunque film. Significa che questi film, comunque, nella fantasia e nella fiction, riportano episodi plausibili, verosimili, che accadono nella realtà. Allora, buon viaggio intanto, alla prossima, ciao! Grazie, buon viaggio. Ahimè, con quanto dolore oggi annuncio l'audiolettera. È una lettera che mi colpisce nel cuore, mi colpisce nell'esperienza, mi colpisce nella pazienza. È una lettera che farà soffrire molti uomini che ascolteranno, quindi voi ridete, ascoltatrici, sorridete la nostra meschina incertezza maschile, ma quest'uomo rappresenta quello che è il dramma di tanti uomini quando vedono accanto a loro la compagna di vita, la compagna di spensieratezza, la compagna di passione, inspiegabilmente allegra, simpatica, estroversa, e ci parla tanto di un suo collega d'ufficio. Caro Gianluca, sono un quarantenne sposato da 3 anni con una donna che amo. Sì, lo dico perché non è affatto scontato. Finora abbiamo avuto la fortuna di non avere mai grandi intoppi, salvo le immancabili incomprensioni e qualche nervosismo, ma come può accadere a tutti? Facciamo 2 lavori non troppo dissimili e molto spesso la sera, bevendo un bicchiere, ci piace confrontarci sulle scelte, le situazioni in cui ci siamo trovati nella giornata e ci diamo consigli. Ultimamente ho notato che nei resoconti fatti da mia moglie sulle sue giornate compare spesso il nome di un collega. Diciamo che si chiama Riccardo. Sai, oggi poi Riccardo in riunione ha proposto questo al capo. Oppure, con Riccardo abbiamo concordato su questa cosa, troppo divertente, eccetera. Insomma, ne parla con quel tono che mi ricorda quando al liceo uno si divertiva a fare coppia con un compagno di classe. Hai presente l'amico con cui te la intendi sempre, fai le bravate e ridi? Ecco, il tono delle sue parole è sempre divertito nel citarlo. E lo fa con un candore che sarebbe al di sopra di ogni sospetto, se non fosse che ultimamente ne ha parlato anche nel weekend, a proposito di temi extra lavorativi. Ha detto una cosa del tipo: «Oh, questo colore è quello preferito di Riccardo». E io, da quel momento, ho cominciato a fare battute acide ogni volta che lo nomina, solo per cercare di sminuirlo ai suoi occhi. Insomma, sono geloso. E non so bene perché. Credo che ci sia anche un sesto senso maschile, oltre che femminile. E qualcosa mi dice che mia moglie o si sta innamorando di questa persona, o forse già se la intende, o forse è combattuta. Non lo so. Tu dirai, ma come? Ma ti pare che se tua moglie avesse una storia con un collega sarebbe sempre lì a nominarlo? Io penso che mia moglie non sia affatto così scaltra e così abituata a tradire. O meglio, secondo me, non si rende conto di quanto ne parla. Forse proprio perché il suo nome ce l'ha sempre nella testa. Oppure, ancora peggio, si prende gioco di me e me lo vuole far capire in un modo così sfacciato. Caro mio, parti subito con il piede sbagliato. Ammesso e non concesso che la tua giovine moglie, giovine di matrimonio, 3 anni, certo dopo 3 anni già si comincia a porre il problema di un intruso nella vostra storia coniugale, io qualche pensierino ce lo farei, ma anche se questo intruso appartenesse soltanto alle tue paure, alla tua incertezza, comunque sia, stare attento, se tu ti poni questo problema, evidentemente intuisci e senti che qualcosa sta vacillando nella vostra unione. Diciamo, sei partito con il piede sbagliato perché la cosa peggiore è sminuire agli occhi della tua donna il collega di cui lei è tanto entusiasta. Se lei ne è entusiasta al punto tale di non avere reticenza di parlarne davanti a te, potrebbe essere anche ingenuamente entusiasta, sinceramente entusiasta, non certo visceralmente, carnalmente entusiasta, ma già basterebbe il fatto che tu lo sminuisca, lei si porrebbe subito il problema di metterti a paragone con il suo uomo. Con il suo uomo, naturalmente, l'uomo di cui sta parlando. E se in questo paragone tu non uscissi male, e se lui fosse comunque capace di suscitare in lei tanto interesse, tanta ilarità, capace di offuscare la tua immagine, Io farei il signore, farei il grande, farei l'indifferente, farei quello che in fondo non vede come un pericolo questo signore. Perché se tu già lo identifichi come un rivale, parlandone male, invendo contro di lui, ironizzando su di lui, già lei si porrà il problema di mettervi su piedistalli e fare il confronto. Veniamo al motivo per cui ti scrivo. Ti chiedo che cosa faresti tu al mio posto. Devo dirle... Senti cara, ma perché mi parli sempre di questo Riccardo? Te ne rendi conto o no? Oppure devo guardare con chi ha parlato al telefono nell'ultimo mese e verificare in quante chiamate compare il nome di Riccardo? Oppure non dirle nulla e aspettare? Ma cosa poi? Che mi dica che si è innamorata di un misterioso collega? Sai che sorpresa? Vuoi scommettere che si chiama Riccardo? Mio caro, io al tuo posto non farei niente, perché non c'è niente da fare. Perché quando si entra in una corsia così pericolosa, così ardita e così affascinante come quella di una storia parallela, è molto difficile che la parte lesa di questa storia parallela possa far qualcosa. Ora, poniamo alcuni scenari. La tua gentile signora ti parla con insistenza di questo collega perché ne è presa, ma non è consapevole ancora che è disposta all'intima d'azione, quindi a creare quella situazione che tanto ti terrorizza, cioè crearsi un amante. Facendo le domande precise, le accendi una luce che probabilmente in questo momento non è detto che sia accesa. Le poni un problema, le poni una scelta. Quindi, comunque, in questo caso ti converrebbe lasciar perdere. Seconda ipotesi. La tua donna è molto scaltra. È molto scaltra e già ha in mente che qualcosa potrebbe accadere con quest'uomo. O perlomeno non è scaltra per niente, però non può fare a meno di parlarne perché sa e combatte col fatto che lui visceralmente la stia prendendo. In entrambi i casi non devi fare nulla, perché se così scaltra da mettere in atto la tecnica infallibile della mezza verità, lei ti creerà presto le condizioni per cui con questo ragazzo, con questo signore, con questo collega d'ufficio potrà fare trasferte di viaggio, potrà fare incontri di lavoro, potrà fare convegni, si potrà sottrarre comunque illecitamente alla tua attenzione e al tuo controllo, visto che tu controllarla vuoi, e farsi i fatti suoi. Nell'altro caso, comunque sia, che ti devo dire, c'è poco da dire, cosa vuoi fare? Il fosso è già saltato, perlomeno. Quando ci si avvia verso una strada di fascinazione, non si torna indietro. Quindi, cosa devi fare? Non fare domande, non fare interrogatori, non fare nulla. Guardati attorno e vedi anche se nel giro delle tue colleghe ce n'è qualcuna di cui poter parlare con allegria, con leggerezza e con fascinazione nei tuoi incontri con la moglie quando vi parlate a tavola e lei ti parla del collega. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.